Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti e benvenuto al nostro appuntamento mattutino ad Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, abbiamo bisogno di te. Vogliamo tornare a parlare di bambini. Bambini durante la ripresa. Come sta andando questo ritorno alla normalità? Tra desiderio di uscire, ma anche un po' di timore. I bambini vengono portati al parco dalle loro mamme, dai loro papà, rincontrano gli amici, ma lo fanno in modalità differente. Alcuni bambini manifestano un certo timore ad uscire, o meglio, manifestano il piacere di restare a casa. Tutto questo è stato etichettato nelle settimane scorse con sindrome della tana. Ne soffrono anche i bambini? Sì, è proprio così e ha davvero stupito molti genitori. Avrebbero immaginato che alla riapertura delle porte, dei cancelli del proprio cortile, i bambini fossero pronti proprio a schizzare via, si sarebbe dovuto rincorrerli. E invece i bambini sono stati molto cauti, un po' come un orso che esce dal letargo invernale, è stato a lungo nella sua zona di protezione e sicurezza. Ecco, nell'andare nel fuori usa delle cautele, ancora un po' intontito, intorpidito, e soprattutto sta bene nella sua zona di rifugio. Del resto i bambini ce lo fanno vedere spesso, anche nel tempo normale, che a loro piace tantissimo anche a casa costruirsi piccoli rifugi, piccole tende con quello che hanno a disposizione, rimanere nascosti lì dentro e generarsi, no, uno spazio che li protegge e che li fa sentire al sicuro. Credo anche che questa sindrome della tana sia legata al fatto che ricevono da moltissime fonti differenti un messaggio che dice che il pericolo non è cessato, che c'è una minaccia invisibile, difficile da controllare, a cui dobbiamo ancora fare tantissima attenzione, ed ecco che per loro, che hanno voglia di essere obbedienti, di non produrre un potenziale pericolo per gli altri, glielo abbiamo proprio detto, no? Nella fase del lockdown, certo, con il tuo sacrificio tu proteggi però le persone più fragili e vulnerabili. Ecco, sono molto cauti nell'uscire, vogliono essere sicuri e tranquilli che non produrranno danni e che quella minaccia non sarà una minaccia reale che cambia qualcosa nella loro vita. Quindi vanno proprio un po' tenuti per mano e portati fuori, facendogli vedere che possono sentirsi sicuri e soprattutto che noi li sappiamo guidare in modo, ecco, che vanno, le loro uscite. Alberto, vanno quindi un po' rassicurati. Tu hai delle idee, dei suggerimenti per aiutarci a farlo nel migliore dei modi? Ma intanto la parola è sempre l'elemento che costruisce la realtà e poi dà senso a quello che proviamo. Quindi se noi li vediamo, no, un po' spaventati, una possibilità può proprio essere quella di costruire un piccolo rifugio, una piccola tenda dentro casa, entrare lì dentro e dire: adesso mi dici tutte le cose che ti spaventano qua dentro al sicuro, e poi pian piano fare il percorso di uscita. Un consiglio proprio molto pratico, sì, e molto concreto con bambini che sono un po' spaventati può essere l'idea di organizzare un picnic di famiglia in un posto all'aperto, portandoci dietro, se ce l'abbiamo, una tenda come quella da campeggio, una piccola tenda canadese, oppure, arrivati in un posto, costruirci comunque un piccolo rifugio con un telo all'interno del quale stare e sentire il senso della protezione e poi uscire per prendere magari il cibo del picnic. È proprio un modo simbolico per riprodurre nel fuori una idea di protezione, uno spazio, un rifugio in cui il bambino sente di essere dentro pur essendo fuori, e con questo passaggio un po' mediare, no, in certo, modo concreto quelle paure che lui ha e che non gli permettono di sentirsi completamente capace di stare nello spazio all'aperto. Alberto, è anche tempo di incontrare gli amici, gli amichetti, i compagni di scuola, della scuola materna. A che cosa è importante fare attenzione nei messaggi che diamo ai bambini, ma anche nell'organizzare magari giochi? Ma io credo che su questo ci voglia una grande alleanza tra i genitori, soprattutto quanto più piccoli sono i bambini, tanto più importante è che gli adulti di riferimento per loro, sappiano capire quali sono le priorità che vanno perseguite in questo tempo, che è ancora un tempo di grande cautela. Quindi il mio consiglio è mettersi d'accordo con solo un'altra famiglia e individuare un altro genitore, con quel genitore fare proprio un po' un patto, no? Che favoriremo la risocializzazione dei nostri bambini, l'incontro con un altro bambino, ma non ci apriremo ancora una dimensione di incontro collettivo. E quindi, se l'altro genitore è d'accordo, ecco, cominciare proprio a rendere possibili gli incontri tra i bambini, magari se hanno più di 6 anni, proponendo a loro nei giochi di tenere per esempio comunque la mascherina, allenarli anche all'utilizzo di un dispositivo di sicurezza che sappiamo essere molto importante. Con i bambini più piccoli, ecco, possiamo anche togliere la mascherina, non essere così precisi sul distanziamento sociale, perché per loro è davvero angosciante, no? Provare a giocare e sentirsi costantemente dire stai lontano, stai distante, diventa una dimensione nevrotizzante, ossessiva. E allora, in questo caso, gli adulti però si sono fatti tra di loro il patto che per alcune settimane, fino a che non avremo chiarezza sull'andamento del contagio, ecco, noi terremo questo contatto esclusivo, il mio bambino gioca col tuo bambino, un'alleanza. Esatto, un'alleanza, mi piace. Senti Alberto, parliamo anche di attività sportiva. Come possiamo aiutare i ragazzi a riprenderla in sicurezza? Ecco, ci sono alcuni sport, se io penso al tennis, in cui se i nostri figli già lo praticavano, ecco, questo diventa uno sport che in qualche modo ha già nella sua struttura tutti quegli aspetti di sicurezza che vengono richiesti. Di distanziamento fisico, esatto, certo. Esatto. Se invece bisogna solo avere tecnica e fiato. Ecco, esatto. In se invece caso. Pensiamo più agli sport di contatto che prevedono, come nel basket o nel calcio, cioè ecco, io credo che dovremmo chiedere agli allenatori delle squadre in cui giocavano i nostri bambini se sono disponibili a fare su un campo all'aperto durante l'estate delle sessioni con piccoli gruppi in cui i bambini rimarranno distanziati e in cui loro proporranno attività divertenti e di allenamento fisico, tenendo i bambini distanziati ma facendo fare loro cose molto divertenti e soprattutto facendole fare in un contesto in cui i bambini riescono a stare insieme. Quindi è di sicuro una sfida molto forte, ma vuol dire avere sul campo non 20 bambini, ma magari soltanto 5, tenerli alle giuste distanze e con attività che vengono fatte sul posto, oppure attività per cui ogni bambino a basket ha in mano il suo pallone, può avvicinarsi, allontanarsi dal canestro, può proprio avere un movimento sul campo, ma l'allenatore deciderà proprio quali sono quegli esercizi che ognuno farà individualmente e li faranno a turno. Credo che queste siano mediazioni al momento un po' limitanti, ma che allo stesso tempo permettono ai bambini di rientrare all'interno della loro attività, di riprendere contatto rispettando tutte le norme di prevenzione con i loro compagni di squadra. Alberto, un anno fa a quest'ora, come ogni anno, si parlava dei centri estivi, questo era un po' il tempo. Sto seguendo un po' il dibattito che viene fatto su due livelli, da una parte il livello governativo che deve dare disposizioni, deve dire in qualche modo come dovrà essere svolta questa missione impossibile. Noi sappiamo che il Ministero della Famiglia ha definito in modo chiaro che i centri estivi ci devono essere. Allo stesso tempo invece il livello proprio di chi i centri estivi li gestisce, cioè gli educatori, organizzatori, si stanno interrogando, posto che questa è la prescrizione che il governo ci dà, cosa vuol dire quest'anno mettere in piedi un centro estivo. Come abbiamo detto altre volte, presumo che la sfida grande sia quella di organizzare microgruppi che vengono assegnati ad un educatore stabile, sarà quello di generare la stabilità delle persone e dei contatti e quindi creare piccole cellule, come dire piccole bande, no? Di tre o quattro fratelli. Il segreto è il piccolo gruppo, vero Alberto? Esatto, quella sarà la chiave dell'estate. L'altro aspetto che un po' mi stanno raccontando, per esempio anche per gli oratori, i centri estivi, è che parte delle attività verranno con dei contatti proprio virtuali, quindi avverranno dentro gli schermi, ci saranno degli educatori e degli animatori virtuali che lanceranno delle challenges e delle sfide su cui poi i ragazzi nel loro territorio, nella loro casa, nella loro piccola comunità dovranno mettersi alla prova, videoregistrarsi, documentare tutte le cose che sono riusciti a perseguire e poi rientreranno nella comunità virtuale mostrando agli altri quello che sono riusciti a fare e a ottenere. Gli ultimi minuti della nostra chiacchierata mattutina li dedichiamo ai nonni. Cosa si può fare, cosa non si deve fare o non si può fare quando i nostri bambini vanno a trovarli? Io penso questo. Intanto organizzare bene l'incontro e proprio approfittando della stagione calda, del fatto che si può stare molto all'aperto, progettare che l'incontro con i nipoti possa avvenire fuori, in uno spazio aperto, esatto, a partire dal fatto che magari dove abitiamo abbiamo un piccolo cortile, c'è un piccolo giardino oppure un piccolo parco proprio abbinato al quartiere in cui è inserita la nostra abitazione, quello può essere il luogo in cui incontrarsi. Stare all'aperto riduce già enormemente il rischio di contagio, l'utilizzo delle mascherine è sempre consigliato negli incontri in cui ci sono dei minori che si avvicinano a persone che hanno qualche elemento di vulnerabilità o fragilità e l'età rappresenta questo elemento. E l'altro aspetto è proprio provare, no, a progettare passaggi della nostra visita. Potrebbe essere proprio l'organizzazione di una merenda condivisa, basterà stare su due panchine che si guardano l'una di fronte all'altra con un tavolino in mezzo e muovendosi in modo alternato noi riusciamo a condividere anche un momento che è conviviale, che è divertente, tenendo quella regola che è così invece impegnativa, soprattutto per i bambini, che è quella del distanziamento di sicurezza. Certo. Grazie Alberto per essere stato con noi, ci sentiamo prestissimo e intanto buona giornata da Nicoletta, noi invece ci sentiamo subito dopo il GR delle 12. Alberto, buona giornata. Buona giornata a voi.